Mangia come parli. Mangia come parli. Di Davide Oldani e Pierluigi Pardo. È la nona puntata di Mangia come parli dopo il tonno della settimana scorsa. Qua abbiamo fatto formaggi, pane, abbiamo fatto il baccalà, forse il mio preferito, il pomodoro, forse il mio preferito, forse il funghi, no, il pomodoro, tutto, il baccalà o il tonno. Oggi è zucca. Parliamo di zucca, che o zucche. Ti dico, non è il mio preferito, mi dovrai convincere che veramente mi perdo qualcosa. Ti convincerà, ti farà cucinare la zucca in maniera pulita. Sono aperto a tutte le soluzioni, vi ricordo la nostra segreteria telefonica 02 30 22 41 84, la pagina Facebook Mangia come parli di Radio 24 e i vostri sms per l'SOS Oldani che arriverà dopo 349 238 6666. Allora, zucca, quindi parliamo di un... proprio siamo in piena stagione, autunno-inverno. Autunno-inverno, anche inverno inoltrato. Più nord che sud. Più viene più utilizzata al nord che al sud. Ma sai chi c'è al telefono? Sì, certo che lo so. Massimo Giletti, benvenuto. Massimo, buongiorno. Come va? No, non vorrei che voi mi aveste chiamato perché io sono una zucca. No, ecco, ma assolutamente. Ma semmai hai avuto a che fare, come tutti noi, con delle zucche carine, simpatiche, no? Quelle decorative o meno, eh? Ma diciamo che ultimamente mi è capitato, per fortuna sono ricordi sbiaditi, molto recenti, ma qualche zucca sul mio percorso l'ho provata, ma io della zucca ho un immaginario fantastico, fiabesco, perché come dimenticare Cenerentola, la zucca che diventa carrozzo, se ne va, no? Maestie, dai, quello... La fiaba c'è sempre nella zucca, poi la coltivavamo da piccoli in giardino, mi ricordo veniva nel nostro giardino la zucca nell'orto. Poi questi sono i giorni di Halloween, quindi è insomma... uno dei colori vivi e belli dell'autunno, del cupo inverno, che danno un po' di felicità perché è un arancione. Assolutamente, su questo non ci sono grandi dubbi. Tu sei biellese, quindi immagino una cucina, la cucina dei ricordi, della tradizione sia molto legata al riso. Forse, no? Sì, no, beh, il riso dalle parti nostre c'è ancora, è fortissimo, insomma, però c'è anche la polenta cuncia nelle montagne, ci sono gli agnolotti al sugo di arrosto. Il plin, c'è il plin. Il plin, c'è tutto, plin, plan, plum, c'è che, tutto. Che è il plin? Perché si dice plin, Oldani? Per il dito? È un modo, si dice, per la tecnica, è una forma di una pasta farcita e non secca che si distingue nel panorama delle forme della pasta italiana. Quindi è naturalmente piemontese, ma poi ti posso parlare, come dicevamo prima, del cappelletto che può essere rotondo o quello girato sul mignolo. Insomma, ci sono tante tipologie di pasta che si identificano proprio con questi nomi particolari. Assolutamente, dovete sapere che noi facciamo delle lunghe sessioni prima di cominciare la puntata, fin dalle 8 del mattino, e parliamo di tutti i tipi di pasta possibile. E è un'eccellenza del nostro paese tutto questo comparto, Massimo, tu che sei abituato a raccontare il nostro paese in maniera molto attenta, molto, molto presente, che come siamo messi dal punto di vista enogastronomico? Benissimo, sul resto magari un po' meno bene, però tanto ci teniamo questo, no? Sì, però voglio dire, noi ci dipingiamo sempre peggio di quello che siamo. In realtà credo che andando proprio nei piccoli centri, nella provincia, e attraverso il cibo scopriamo delle realtà che nessun altro può avere. Cioè i cinesi non potranno mai, per esempio, copiarsi, potranno copiare il Colosseo, ma quello originale l'abbiamo noi. La qualità dei nostri cuochi, dei nostri chef, anche quei piccoli ristoranti di provincia, ripeto, quella non ce la possono portare via, quella manualità, quel modo di fare che tu fai dell'Italia un paese vincente. Assolutamente, la settimana scorsa parlavamo... È una risorsa umana da tutelare questa, quindi importando più turisti, facendo in modo di far vedere quello che è la cucina italiana in Italia, si può sicuramente vincere su molte altre situazioni. Assolutamente, la settimana scorsa parlavamo di tonno e parlavamo del fatto che insomma dall'Asia c'è questa ricerca dei tonni migliori, che sono quelli del Mediterraneo, che poi vengono cucinati ovviamente nella loro maniera. Mi dai subito una... Qual è la tua ricetta preferita con la zucca? Ma la zucca, naturalmente, a me piace quella mantovana, normalmente quella naturalmente è un po' bagnata, cucinandola, facendola seccare un po' al forno, si ha questa polpa molto intensa che può essere utilizzata sia su una parte dolce che una parte salata, perché non c'è da dimenticare questo. Poi il piatto più famoso in Italia è il tortello di zucca, e dopo ci darai una ricetta, ne parleremo. Come te la cavi in cucina? Stavi prendendo appunti, Massimo? Ma io mi ricordo che quando frequentavo Antonella Clerici, lei, diciamo che in cucina era scatolette e basta. Adesso vedo che è diventata una pazzesca e mi è andata male. Ma io vivo da solo, per cui non ho mai agevolato le scatolette. Ho sempre cercato di comprare al mercato il materiale con cui mangiare, perché credo che insomma è anche divertente stare insieme, costruire qualcosa e mangiare il vero cibo, quello vero, non quello scatolato. Poi uno se ha difficoltà lo capisco, no? Quando fai il militare pigli tutto quello che vuoi, certo. Però se si riesce a cucinare credo che sia molto molto più bello. Beh, è una prestazione artistica. Dai, tu ormai sono, quanti anni sono che cucini? Forse qualche volta vorrei passa. Ti diverti ancora? Ma mi diverto, e certo, è la mia vita, quindi devo dire che è un buon passatempo quando non lavoro, è una passione e poi è anche il mio lavoro, quindi ho la fortuna di amare quello che faccio. Però sai che nella cucina la conoscenza la puoi fare in maniera veloce, perché con i social, con internet tu hai tutto e subito per quello che riguarda i prodotti. Poi se uno mette un po' di passione, come sta dicendo Massimo, credo che sia la cosa più bella per poter vivere bene. Qual è il piatto che ti riesce meglio, Massimo? Quello che se vuoi fare un SOS Oldani in diretta e vuoi chiedere un consiglio? No, ma guarda, io quello che faccio meglio è, perché è anche un po' dietetico, sono il polipo messo bollito, sì. Olio, limone, capperi dell'isola di Pantelleria, patate bollite a fianco, poi un po' di sale, via i profumi del Mediterraneo con tipo origano e altro, e questo lo si fa facilmente e secondo me ti lascia sempre un buon sapore. Allora Massimo, un piccolo suggerimento, visto che sei molto, insomma, sei molto per il benessere, per il buon cibo, per la dedica a tutto quello che è il buono di tutto il cibo, io ti consiglierei, anziché la patata, fai una prova con la zucca, la fai cuocere al cartoccio come se fosse una patata, polpa zucca, e poi la schiacci con una forchetta, un goccio d'olio, sale e pepe, e la servi con polpo e poi mi dici. Bravo, e soprattutto non è la comunque patata, che magari a volte diventa un po' più pesante, la zucca è acqua, questo, scusate, ed è verdura, quindi. Se dovessero comunque avanzare due patate, cioè non è che io non mi offendo, ecco, ve lo dico, traffico di zucche e patate. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Mangia come parli. Polpo e zucca. Perché questo? Perché questo accostamento, chef? Perché molte volte si fa questo errore di prendere magari l'insalata di polpo con la zucca, poi tu mangi un primo col carboidrato, poi un secondo con un'altra patata e poi un dolce con la farina, e quindi diventerebbe una cosa solo sostanziosa. Invece la cucina nuova, il modo di approcciare al cibo è quello della soddisfazione, del gusto, ma anche dello star bene, della complementarità. Quindi, guarda, cioè, il seguire la stagione, tu puoi fare tranquillamente una purea di zucca che non ha le stesse caratteristiche della patata, quindi molto più leggera perché è una verdura, e hai un gusto attuale, cioè della stagione, e soprattutto ti permette poi, come nel tuo caso, di metterti la tua cacio e pepe, piazzarla ovunque in ogni menù. Perché mi conosce bene. Ma che rapporto hai con la cacio e pepe, Giletti? Tu non sei romano ormai. Ci siamo visti qualche tempo esatto. Abbiamo abbondato di cacio e pepe all'arancio. È vero, abbiamo abbondato di cacio e pepe, lo so, ma che dobbiamo fare? Ma è buona, è squisita, dai, ma bisogna anche divertirsi la sera. Il cibo è fantastico, stare insieme riunisce, poi mangiare bene fa solo piacere, la convivialità. E invece coi vini come andiamo? È un piemontese, con i vini deve per forza convivere, anche perché in mia famiglia, io mi ricordo che fece un disastro pazzesco, mio padre nascondeva dei vini pregiatissimi, Barolo, tutte queste robe qua, in una galleria, e io entravo in questa galleria e prendevo queste bottiglie pregiate pensando che al bambino costassero 2 lire e le davo in cambio di soldatini o conigli. mi sembra una buona iniziativa. Hai costruito le grandi cantine in casa di amici. Poi sappiamo che c'erano anche dei filati dentro casa, no? C'era sì, del cashmere che tu davi in cambio di figurine. Sì, mio padre mi ha ammazzato quando l'ho scoperto, però io guarda, ti dico, vado un po' controcorrente. Trovo che ci siano delle barbere pazzesche, comunque tutto il vino, insomma, il vino piemontese è forte. Senti, l'ultima cosa ti chiedo, perché insomma tu sei uomo di televisione, comunicatore, ma questi chef ormai, ma sono uno più figo dell'altro, ma, cioè ormai i nuovi sex symbol, chiamiamo le cose con il loro nome, i nuovi personaggi cult della televisione sono gli chef. Cioè una volta c'erano gli attori, poi c'è stata la fase dei calciatori, adesso impazziscono tutti qua, Oldani, Cracco, perché dobbiamo mangiare tutti, dobbiamo mangiare mangiare, no. Quindi siamo indispensabili quasi noi cuochi. No, perché le donne secondo me sono sedotte da questo modo di raccontare la cucina, siccome le donne hanno a che fare comunque inevitabilmente con la cucina, vederla declinata da personaggi anche interessanti, perché se tu dialoghi con Oldani non è che parli solo di cucina, cioè di solito dietro un grande chef c'è anche un uomo di qualità, e quindi è questo che affascina. Poi io non lo so, ma la cosa che affascina di più in cucina, devo dire Massimo, è quando ci sono i movimenti, le azioni. Quindi se vuoi conquistare una donna lo puoi fare tranquillamente cucinando un piatto di spaghetti e facendo due tocchi sulla cucina, tu rimorchiavi così, cioè... no, insomma, però è molto intrigante, cioè tu rimorchiavi la cosa. Sfilettando, cucinando, ma due tocchi in maniera molto pulita senza sporcare, cioè, ma non senza... puoi capire che Jesse sta facendo adesso nel mimare i due tocchi. No, tutta roba assolutamente non volgare, è la cucina, due tocchi, gesti, spiegati bene, spiego attenzione. Bene, no, proprio i gesti, tipo l'eleganza, tagliuzzare un cubetto di tonno, è l'eleganza, ma lui che conquista, è abituato al calcio, i due tocchi calcisti, esatto. Gli allenatori vogliono il calcio veloce, esatto, due tocchi, non di più. Va bene, professor Giletti, bocca al lupo per la stagione sulla 7. Ho pensato alla zucca e ho avuto un momento di difficoltà, ma l'abbraccio. Grazie, ciao, abbraccio, grazie, forte, grazie a Massimo Giletti. Allora, vogliamo vedere la ricetta, vogliamo intanto raccontare la ricetta, perché io questa zucca non lo so, non mi sento ispirato, sono svegliato, ma vabbè, prego. Attenzione che dalle prime ricette ti voglio far lavorare un po' di più, quindi anche oggi faremo una ricetta un po' più lavorata. Io direi pisarei, che tu buoni, credo conosca. Piacenza. Quindi un pane semplice. Com'è il piatto di Piacenza? Pisarei. Pisarei e fa. Dillo. No, fai fesù. No, fasù. Fasù, lo so, ragazzi. Provi di cassuela. Cassuela. Ragazzi, io sono di Roma, frequento De Luca che è di Napoli, che mi cazzi perché non parlo napoletano bene, ci provo. Pisarei e fasù, facilissima, un impasto fatto con un pane secco grattugiato. Aspetta, noi non facciamo pisarei e fasù oggi, facciamo la zucca, no? Facciamo con la zucca, tu mi hai chiesto, allora okay. Andiamo avanti. Allora, calma. Pane grattugiato. Pane grattugiato, sì. Un po' di brodo caldo. Posso farcela? Brodo caldo, sì. Brodo io caldo. Direi su. Che ci facciamo brodo caldo? Io direi tre, ti do anche la dose: 3 etti di pane grattugiato, ecco. E 2 decilitri di brodo caldo. Decilitri. Un brodo di manzo, di pollo va anche bene. Ok, io da una parte ho il pane, dall'altra ho il brodo. Che caldo. Unisci caldo. Le due cose. Unisco. Impasti. Unisco e impasto, sì. Aggiungi un po' di grana. Sì, grana. Di grana grattugiato. Stagionato 27 mesi. Sì, anche un 27 può andare bene. Può andare bene un 27. Può andar bene. Un tocco di noce moscata. Certo, classica. Poi non si lega nessuno. Impasto. Passo la giornata. Poi con un gesto molto sexy, come si diceva poco fa, fai i tuoi piccoli pisarei. E questo tu credo sia molto capace. Come faccio a fare i pisarei? Prendi piccoli pezzettini, fai dei rotoli, tipo gnocchi. Ma diciamo quando... a chi non lo sapesse, io lo so benissimo. Cos'è il pisareo? Cioè, diciamolo, perché qua tutto... c'ho De Luca e Ferronato che non stanno capendo. Cos'è il pisareo? Questo impasto che hai, sì. Prendi circa 100 grammi a pezzo, fai dei piccoli rotoli. Faccio dei li rotoli. Tagli. A piccoli pezzettini di 1 centimetro più o meno, sì. E poi con l'eleganza puoi fare o con il dito sul tavolo, quindi strisciarlo in maniera, sì, tale che venga tipo una sorta di orecchietta, però, sì, non proprio violento, oppure prendi una forchetta e prendi il pezzettino di pisareo. Io farei forse forchetta e lo fai sulla forchetta, mi sembra più elegante, giusto per rigarlo. Per rigarlo, quindi torniamo un po' sul gnocco classico. Sai, io non ci ho capito veramente niente, quindi io faccio questa roba e a questo punto tu hai questi piccoli pisarei, li cuoci, ascoltami bene, in acqua, sì, e li tieni da parte. Li tengo da parte. L'altra, prendi la tua zucca. Ah, certo, perché c'è la... che avrai cucinato al forno in un cartoccio di carta stagnola. Sì. Quindi la fai precedentemente, la scavi, avrai tutta la purea di zucca. Sì. La frulli con un po' di acqua, un po' di olio, una buccia di arancio. Aspetta, sto impazzendo. Acqua, olio, una buccia d'arancio, sì. E hai una vellutata di zucca, giusto? Sì. Semplice. A quel punto unisco. Intiepidisci le due cose e servi. Fatta. Questa zucca e pisarei. Ma non ci vogliamo mettere delle scaglie di sale sopra, no? No, io direi di no, perché hai già messo formaggio nei pisarei, hai già la tua zucca che è stata cucinata al cartoccio. Ma perché ridono tutti? C'è anche l'ufficio stampa oggi che ride. Ma che volete da me? Ma io posso passare il sabato mattina a pensare ai pisarei? Devo dire che nelle prime facevo fare con due tocchi una ricetta. Adesso questa siamo a 6 tocchi, ma siamo anche alla 9ª puntata. Questa è difficile. Andrea Griffagnini, gastronomo, giornalista italiano, sex symbol pure lui, diciamo la verità, oltre ovviamente a Oldani. Che vuoi che dire, Oldani? vuoi dirci Oldani? Che ci vuoi Grignafini. Dire? Grignafini, che ho detto? No, vabbè. Va bene entrambi, dai. Grignafini, che ho detto? Sta mangiando. Ah, Grifagnini, ho detto, ma no, Grignafini. Però Griffa. Grignafo sta mangiando, Pier, buongiorno. No, Andrea, non sto mangiando. La ricetta più difficile, non la puntata di sempre. Qua non ho capito che devo fare con i pisarei. Va bene, comunque. Però mi ha fatto venire appetito. Immagino. Senti, la zucca è al centro di dispute anche geografiche, come tanti alimenti. È una delle cose più belle che, insomma, l'Italia è un paese meraviglioso nel suo campanilismo. Basta ovviamente poi non farlo diventare ostilità, ma finché il campanilismo è sul cibo e sulle eccellenze, insomma, c'è Parma, c'è Mantova. Cos'è la zucca per quel pezzo d'Italia? E anche un po' nel calcio, un po' di campanilismo ci vuole. Certo, direi di sì. Con moderazione. No, beh, è un po', diciamo, tutto il suo contrario. Se uno ci pensa, la zucca può essere un elemento così planetario, perché assomiglia a un pianeta, qualcosa di sottoterra, qualcosa della scorza bitorzoluta, dentro è ruvida ma diventa morbidissima, è dolce ma si usa nei primi piatti, cioè è un po' tutto il suo contrario, una grande metafora della vita e del pallone. Hai capito? Roba seria, eh? La tua preferita per i tortelli di zucca parmigiani, non mantovani, qual è? Bravo, perché parmigiani in teoria è il tortello della zucca più estremo, quello che valorizza la zucca, perché c'è solo zucca e parmigiano. Ecco, fatemi capire. Allora, a Parma il tortello come si fa con zucca e parmigiano? In teoria sì, poi tutti non lo fanno così, devo dire, però in teoria sarebbe solo zucca e parmigiano. Okay. A Reggio c'è l'aggiunta della maretta, a Mantova con mostarda e quant'altro. Ah, e quindi è tutto semplicissimo. Quindi è questa roba qua. A Palma siamo più e poi la forma, ci come sono dicevamo, gli orzan che mettono l'amaretto. Sai come, esatto, i parmigiani chiamano gli arzan? Si può dire, oppure si offendono? Teste rotone, perché mangiate teste rotonde, è chiaro. E poi Mantova invece con le mostarde. Esatto. È una ricetta più arabescata, perché insomma rientra un po' in quella cultura gonzaghiana che era fatta di mille contaminazioni, agrodolci, agropiccanti, psenapato, quindi ecco, un po' più complessa. Altra cosa, Andrea, pasta sottile, spessa. E lì, guarda, bisogna vedere il progetto che uno ha in testa. A me la pasta piace sempre che sia elastica e leggermente consistente, però dipende anche dal volume della farcia, dipende un po' dal gusto della farcia. Uno spinge molto sul dolce o sul salato, dal condimento, molti mettono il soffritto, a me lascia un po' perplesso, ma è un'idea, diciamo, come diceva Paolo Conte, un'idea come un'altra, ci può stare. Esatto. Dai, un po' come Genova. Esatto. Il tortello di zucca o alla base anche i tortelli di erbetta che si fanno sono prevalentemente conditi con un velo di burro. Bravo. E di grana, senza aggiungere altre cose. Perché? Perché all'interno del raviolo c'è il gusto totale del piatto che dovresti avere, giusto Andrea? Bravissimo. Quindi il raviolo. Poi l'altra cosa, una curiosità mia, cosa abbineresti a una zucca, un piatto di tortelli, direi parmigiano? Ma dal vino a un infuso, a un superalcolico, a una birra, cosa potresti consigliare? C'è chi l'abbina un po' per simpatia, quindi dolce su dolce, tono su tono, e quindi va verso dei passiti, dei recioti, lo rende quasi, moltiplica la sua parte dolce, forse è poco invitante all'inizio del pasto, ma è molto curioso. Ci può essere invece un vino rosso un po' mosso per dargli un po' di brio, ma onestamente mi hai fatto venire un'ottima idea, anche da bella birra, magari ambrata, quindi gli dà un po' quell'amaro. Perché no? riprende la punta, cioè fa contrasto con la punta del dolce che invece ha la zucca. Perché è il motivo per il quale, scusate, io non impazzisco per la zucca, senza che nessuno offenda, perché è questo dolciastro che un po' mi... No, dolciastro... Vabbè, no. Andrea. No, ma in effetti è curioso che uno mangi, ci piace tanto una cosa come starter che sia dolce, molto curioso. Sì. La mia cipolla caramellata è un po' l'esempio di quanto siamo golosi e quindi quanto riusciamo ad accettare il dolce all'inizio di un pasto. Io, Andrea, ti ringrazio per la tua disponibilità. Grazie a voi. Naturalmente... Siete così preparati che potevate evitare di chiamarmi. No, ma invece mai aperto questa cosa che a Mantova c'è la mostarda, che a Parma c'è la zucca e parmigiano e basta, che a Reggio ci sono gli arzani che ci mettono la mare, ma esaltato, mi sento dentro, vorrei essere con Guccini adesso, lunga e diritta correva la strada, sono ancora aperte come un tempo le stelle di fuori porta e si mangia dell'ottima zucca, mangia. Grazie. Come parli, grazie Grignafini, grazie, grazie, grazie, lo molliamo. assenti ma a loro modo presenti, impegnatissimi ma che poi si impegnano ad esserci, attenti ma tanto distratti, volenterosi ma un po' impacciati, autorevoli ma anche giocherelloni. Federico, guarda che c'è una parola che riassume tutto questo: è padri. Ed è proprio di padri e ai padri che parleremo, per dare qualità al tempo passato con i figli, quindi anche al nostro. Padri casalinghi e padri incasinati, padri modello e padri single, padri separati, padri indaffarati, padri in pace con loro stessi, perché non ci sono né padri perfetti e né padri imperfetti. Padri Eterni di Matteo Bussola e Federico Taddia, la domenica alle 11 su Radio 24. Matteo, e le mamme? Per fortuna che ci sono. Gianluca Nicoletti dalla stazione di Radio 24. Comunicazione di servizio. Il mio viaggio in treno continua. Chi volesse saperne di più, mi ascolti ogni sabato alle 15. Mangia come parli, mangia come parli. Oh, mangia zucca. Come parli! Quante informazioni ho oggi in questa mia zucca, questo mio capoccione enorme, ma tante altre cose voglio sapere. Tra poco arriva anche il momento dell'OS Soldani, un altro grande ospite fra poco, ma intanto mi dici il metodo di cottura, perché uno dei problemi della zucca, se non sbaglio, è l'acquosità, non la percentuale di acqua. Ma perché lo dici? Perché te l'ho detto io prima. Sì, non, perché non, posso tu. Non posso pensare che tu ma sai non so che niente, la zucca non sia so così acquosa. Poi sulla zucca ti ho detto, per me è giorno di trasferta. È importante naturalmente, come dicevo, la stagione, perché la stagione contiene, ti dà l'opportunità di avere la zucca più buona. Io, come dicevo, utilizzo quella mantovana e quando capita che rimane troppo acquosa, la cottura deve essere fatta o sotto sale, come se fosse un branzino tu che ti intendi, o con un cartoccio, quello che consiglio io, quindi in forno a 110-120 gradi per un'ora circa, in maniera tale che rimanga compatta, l'acqua evapora e rimane tutta la polpa della zucca, che è quella che a noi interessa. Poi con questa polpa è bello perché ci si può divertire, che possono diventare, come nel caso di Grignafini che diceva prima, sul tortello mantovano parmigiano, può diventare anche un qualcosa di dolce abbinato a un dolce di chiusura pasto. Se tu utilizzi tutto, quella stirata fa, mi dicevi che del tonno non si butta nulla, nemmeno della zucca, perché no, tu usi zucca, i semi. Che ci fai con i semi della zucca? È un altro nuovo senso dell'approccio etico alla cucina, quindi dalla buccia ai semi. Ti faccio un esempio: i semi li utilizzo pressandoli con una piccola pressa a freddo e quindi ottengo un olio profumato molto intenso e leggermente amaro. Dalla buccia è una cosa molto semplice: facciamo essiccare e facciamo un biscotto con una farina di mandorle, e la polpa, come dicevo, la si può utilizzare in mille situazioni, dal primo piatto all'abbinamento con pesce e carni al dolce. Assolutamente, vabbè, insomma, mille aspetti interessanti legati alla zucca. C'è la dottoressa Rasnovic? Dottoressa, addirittura. Beh, buongiorno. Sì, buongiorno, come va? Come buongiorno, te la cavi con le Camila. Zucche? Come te la cavi, buongiorno, Camila? Ciao Davide, ciao, dai, Camila. Fammi salutare lo chef, che noi siamo amici, sai, Riccardo. Lo so. Ho capito che siete. Lo so che siete ciao. Amici. Camila, non Camilla. No, Camila. Esatto. Allora possiamo dire a tutti gli ascoltatori di Radio 24 Camila. Questa cosa? Camilla. Camilla, come cucina Camilla? Allora, io cucino molto bene, Davide. No, allora Davide non può testimoniare, perché però può testimoniare, diciamo, la discendenza, ecco. Esatto, poi, e la passione. Ecco, e la passione. E le verdure in modo particolare, perché insomma mia mamma è stata una molto avanti negli anni 90, adesso tutti sono vegani, ma in realtà mia mamma aprì il primo ristorante, diciamo, biologico vegetariano, uno dei primi in Italia. Ma forse credo il primo. In assoluto. Sì, stiamo parlando del 91-90. Sì. Insomma, molti anni fa. Quando ancora, insomma, diciamo, essere vegetariani e vegani era proprio una roba da con Pietro Lehmann, no? Con Pietro Lehmann, poi insomma. Stiamo parlando, capito, così dell'eccellenza, caro Pardo, di questa cosa. Ma perché mi tratti così, come se ci fosse Oldani, perché, e poi questo signore magro. Ma no, esatto, questo signore magrissimo, no, ma perché io in realtà, sai, la mia adorazione nei tuoi confronti è tale. No, lo so, ma è reciproco. Esatto. Spesso io prendo dei treni soltanto perché so che c'è lei e poi torno, cioè arrivo in stazione e torno col treno successivo. Sì, no, ho detto che ognuno di voi due ha una relazione, diciamo, con Lombardo ho questa relazione intima sui treni, diciamo, no? Cioè, sì, okay, ecco. Voglio dire, adesso fra qualche minuto c'è anche mia moglie che interviene, comunque volevo rassicurarla, ovviamente è una iperbole questa, ci siamo incontrati qualche volta in treno. Senti, chiuderei la cosa anche per salvare il rapporto fra Oldani ed Evelina, e vorrei capire invece tu hai una ricetta a base di zucca, Camila? Guarda, sì, io la zucca è un che poi tra l'altro, Davide, non lo so, si può considerare una verdura la zucca? Sì, assolutamente sì, una zucca. Verdura. Ah, vabbè, verdura, no? Perché poteva essere tipo una patata, dici? Ah, no, una radice. Delle famiglie delle patate, no. Perfetto, verdura. Allora sì, la mia preferita è la crema di zucca. Io adoro farla col mini peamer. Ti è piaciuto il rumore? Ho nominato sì. Bravo. Okay, vero, anche si fa col mini peamer, Oldani? Guarda che è la ricetta la ricetta nostra di oggi che poi tu devi spiegare. Piserei sì. Zucca. Ecco, invece io la faccio tipo crema con una patata, ovviamente, perché così viene tutto un pochino che si lega un po' di più, e poi due o tre gamberi sopra con un pochino di zenzero. Ecco. Quindi da quest'idea di vegano, vegetariano che avevi, che poi quando ci si incontrava al Gioia nei famosi tempi indietro, quando tu studiavi e poi... Voi secondo me avete comunque un passato, adesso scusate, adesso non vorrei fare... Di amicizia pura. Cioè non vorrei fare Camilla. Proprio del gossip, no, però allora, no, ci si incontrava. Allora, ma c'è una faccia questo Oldani, allora, è visibilmente eccitato, tu non lo vedi, ma è una condizione... Non ascoltarlo, ti prego. Lui è, Pardo, ascolta, no, io avevo 16 anni peggio. E stavo studiando, facevo il liceo classico, sì. E anche Davide era un ragazzino e io facevo la cameriera per pagarmi i miei viaggi, sì, perché la mamma è sempre stata un po' così, cioè vuoi andare in viaggio e vuoi andare in vacanza, lavori, e sì. Quindi lavoravo nel suo ristorante d'estate e Davide era lì a fare uno stage invece in cucina con Pietro Lehmann, tipo una roba così, Davide, giusto? Sì, giusto, giustissimo, ecco. Un caro amico, quindi, Pietro, vero? Ecco, e quindi io, come dice Davide giustamente, un pochino buttavo là l'occhio. Certo, vabbè, non voglio, ma volete parlarci di vogliamo approfondire il tema, vogliamo espanderlo oppure... Il tema da espandere è il fatto del vegano anticipato. Ah, ma no, io parlavo di altro. Di cosa parli tu? No, sai, che ne so, buttava l'occhio, tu mi torni sul vegano, parli. Dai. Senti, ma lo spaghetto di zucca, cerchiamo una mediazione. Lo spaghetto di zucca è una cosa molto nuova, di una zucca americana che si cuoce intera, una volta che l'hai cotta la apri, la dividi in due, la svuoti e poi con una forchetta raschi e vengono fuori dei piccoli spaghetti, che è una cosa fantastica che si può utilizzare non da fare come cacio e pepe come vorrebbe Pierre, però da fare come verdura da in abbinamento a un pesce, una carne o da piatto centrale, perché questi americani sono fissati con queste zucche. Ma che rapporto hai con Halloween, Rasnovic? Se non sbaglio tu sei nata da padre argentino di origine russa, giusto? Sì. Esatto. E madre italiana, una cosa. Sì. Madre italiana, cresciuta però anche lei in Argentina. Ma io che rapporto ho con Halloween? Non ho un grandissimo rapporto. No. Nel senso che essendo comunque sentendomi totalmente italiana, sono d'accordo pure io. Sì, d'accordo. Cioè, adesso con le due bambine vengono invitate alle feste di Halloween, le porto, va bene, però perché io... I bambini si divertono con questa bella festa di Halloween, no, scherzo ovviamente, cioè, si divertono tanto, no? Sì, secondo me paradossalmente loro la sentono quasi più del nostro vecchio carnevale. Cosa sbagliata? Il vecchio carnevale ambrosiano, le mie ad esempio... Il marketing, ragazzi, il marketing. Bisogna lavorare sul marketing del carnevale ambrosiano. Senti, questo Kilimangiaro, tu hai fatto, continui a fare Kilimangiaro tutte le domeniche. Devo dire che ti sei occupata di un argomento molto, molto vicino a quello che trattiamo noi, perché soprattutto nel periodo dei borghi, la cittadina più bella d'Italia, i viaggi, insomma, l'aspetto enogastronomico alla fine è decisivo, con tutto il rispetto per il patrimonio artistico, però anche quella è arte, o no? Assolutamente sì, e noi la trattiamo tantissimo, esatto, come giustamente dici tu, nel nostro Kilimangiaro. Quando dedichiamo il nostro spazio ai borghi, c'è sempre all'interno dei borghi uno spazio dedicato all'enogastronomia, perché è di fatto un patrimonio della nostra cultura, e quindi assolutamente sì, ne parliamo molto. E molta gente, molti turisti viaggiano prevalentemente per la gastronomia piuttosto che per il paesaggio, e quindi abbinare queste due cose come lo fai in maniera elegante, Camila, alzato la mano, io sono uno di quei turisti lì. No, voglio dire, è anche impossibile secondo me dividere i due temi, no? Nel senso che poi la bellezza degli occhi, la bellezza dell'arte, la bellezza del cibo. A proposito di zucca, allora, posso darvi questa dritta che sicuramente Davide sa già, ma i tortelli cremaschi. Cremaschi. I tortelli cremaschi sono fatti con la zucca dentro e l'amaretto. Ecco, quindi come a Reggio Emilia, giusto? Guarda, questo non lo so che i tortelli cremaschi sono fatti così. C'è meno grana, c'è meno formaggio in quelli cremaschi rispetto a quelli emiliani. quelli emiliani, a quelli reggiani. Perché ecco, a Parma, Camilla, poi... c'è solo zucca e parmigiano, mentre a Reggio c'è l'amaretto, a Mantova la mostarda. Io qua scrivo tutto perché alla fine della puntata sono... Hai capito, mi sei sul pezzissimo. Il discorso del chi mette il grana piuttosto che l'amaretto è un po' il discorso da bar delle partite di calcio, cioè, mi sembra di essere sullo stesso tema, certo. 55 milioni di CT e 55 milioni di gourmet. Perché ognuno ha la sua ricetta ed è ovviamente incrollabile nella fede. La si discute. Va bene, ma MTV 20 anni fa che mangiavate? Fish and chips? MTV 20 anni fa, beh sì, dai, eravamo fish tutti dei ragazzini, non cucinavamo, mangiavamo a Camden Town quello che ci capitava, sì, un pochino schifezze, devo dire, sì, le mangiavamo, un po' così. Però sai, a 20 anni tutti più o meno, no? Soprattutto quando non vivi in casa con la mamma, certo, alla fine ti arrangi con, queste cose di £2 e all in. Eat all you can. Mangia, che fra l'altro è una formula che c'era molto nei ristoranti inglesi. Poi io ho fatto l'Erasmus a Londra nel 95-96, dall'anno dopo hanno provveduto di non farla più perché non gli conveniva, dopo sono passato io, che perché era fantastico, mangia tutto quello che puoi a 4.99 sterline, era veramente esatto. Meglio non sapere cosa c'era dentro, no, neanche io. Comunque l'ho vissuta anch'io a Londra, le prime Pickens duck laccate le mangiavo a Londra nell'89, l'anatra laccata. Nell'89 riuscivo a mangiarla. Si può dire, a mangiare come parli si può dire. No, c'era questa anatra che ancora oggi in Italia non riesco a trovare, e c'era l'abbinamento particolare di una zucca cotta al forno. Era un nuovo modo di vedere una cucina cinese a Londra. Devo dire che è ancora un sogno quell'anatra laccata. Va bene, domani sera mi guardo chi li mangiaro dopo aver fatto Intertoro. Va bene, eat as you talk. Continuiamo fra poco. Grazie Rasnovic. Camila, fra poco a Sassoldani. Soldani. La salute non è tutto, ma senza la salute il tutto è nulla. Siete d'accordo con me? Allora seguitemi, state con me ogni giorno. Sono Nicoletta Carbone e vi aspetto mezzogiorno con Obiettivo Salute. E al sabato, sempre a mezzogiorno, con Obiettivo Salute Weekend, per conoscere tutta la verità su prevenzione, ricerca, cura, stile di vita. Io vi aspetto, non mancate. A proposito di verità, la frase di apertura non è mia, è di Schopenhauer. Adesso lo sapete. Vi aspetto. Ibrido Toyota, la scelta inevitabile per il tuo business. Vi presenta. Qui ad Olimpia sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. I campioni dello sport, le loro imprese, le loro storie, i loro segreti. Scopriteli a Olimpia, la città dello sport, quest'anno con un ospite d'eccezione. Sono Stefano Tirelli. Seguiteci qui a Olimpia, alla scoperta delle menti dei campioni. Sono Dario Ricci. Vi aspetta Olimpia, miti e verità dello sport. Ogni domenica alle 21, qui su Radio 24. Mangia come parli, mangia come parli. Oh, si avvicina il momento dell'SOS Soldani. Vi ricordo il numero, oggi l'ho fatto poco, per i vostri messaggi WhatsApp: 349-238-6666, la segreteria telefonica 02-30-22-41-84, poi c'è la pagina Facebook di Mangia Come Parli Radio 24, l'email mangiacomeparli@radio24.it. Senti, prima parlavamo degli abbinamenti in termini di vino, in termini di bevande, ma tu fai con la zucca, fai degli abbinamenti, sì, anche molto arditi, no? Assolutamente si possono fare. Il primo che mi viene in mente è con la polvere di caffè, che con la tonalità dolce e intensa della zucca ci può stare, con il giusto equilibrio. Mi viene in mente ancora di più uno zenzero fresco grattugiato. Il succo che ottieni addizionarlo alla purea, secondo me è una cosa veramente particolare, e poi fresca. E un'altra cosa potrebbe essere utilizzando una riduzione, che tu conosci oramai bene questo termine, di porto. Chiaro. Che è un liquore che è a me lo dici, molto la riduzione dolce. È ovvia. Giusto. Come la faresti? La farei. Dai, potresti farlo anche con quella cosa che hai fatto adesso di becco, non puoi non ricordarti. La terza puntata. Sì, era che. Abbiamo parlato di Marsala. Marsala. Ridotto, come fai a ridurlo? Non mi ricordo. Come faccio a ridurlo? Su un pentolino, ah, un pentolino, fuoco basso. Un fuoco basso e ve lo perde consistenza. 50-60% di riduzione, quindi evapora una parte e tieni questo 30%. Ah, certo. È vero, giuro che lo sapevo. Ma l'ho detto io. L'hai detto tu? Sì, infatti. Okay. Voto 4. Però me lo ricordavo. No, 4. Vabbè, NC. SOS Oldani. NC. SOS Oldani. Ronaldo si diverte dietro il vetro, ma la verità è che pure lui non sapeva come fare la riduzione. Cioè, qua, ragazzi, è come andare a scuola. Chiara da Latina, vai! Salve, chef. Per cucinare il pollo con la birra, quanta birra ci vuole? Tanta per coprire il pollo nella padella o meno? Cucinare il pollo con la birra, io potrei solo dire di tenere la birra a parte e berla con un buon pollo cucinato al forno. Cioè, l'hai distrutto la ricetta? Perché sai, mettendo la birra nel pollo totalmente poi evapora e alla fine non hai un gusto intenso. E il manzo, sai quella ricetta irlandese del manzo stufato con la birra? Alla birra sì, no, si può fare, tutto si può fare, però poi alla fine io voglio il gusto della birra, che è l'ingrediente principale. Quindi tu dici, mangia del pollo poi e tu sai la bellezza e la bontà della birra, cosa sono? La bollicina che ha, sì. Se tu la cuoci perdi questa sensazione che non dà più un valore aggiunto a quella che è la bevanda birra. Giovanna da Caserta. Salve chef, volevo sapere, per attenuare l'odore sgradevole della cottura di cavoli o cavolfiori, è vero che bisogna aggiungere all'acqua di cottura un pezzo di pane raffermo? No, storiella metropolitana, così come il sughero nel polpo, io direi solo di limitare la cottura per salvaguardare l'ingrediente e per avere il gusto totale, quindi tagliarlo a piccoli pezzi, una cottura veloce sicuramente non fa puzzare l'ambiente. Sì, è drammatico il cavolo, possiamo dirlo? No, ma anche la zucca. Ma scusa, non puoi vivere solo di cacio e pepe e pepe no, e cacio. No, pure tonno, baccalà, pomodoro, mozzarella, pomodoro del piendolo. No, però sai, quando sei nella stagione il cavolo, viva vuole. Il cavolo, Riccardo da Mantova, chissà se parla di zucca. Salve chef, mi svela un trucco per spellare al meglio i peperoni? Certo, io direi una foglia di carta da forno all'interno, ben chiusa, messa in forno per una ventina di minuti a 160 gradi, dopodiché si leva dal forno, si lascia raffreddare lentamente e nel momento in cui si apre questa carta dove sono stati avvolti i peperoni, il peperone si spella da solo. Beh, mi sembra fantastico. Come si dice il peperone? Dove andava De Luca? Il peperone com'è? Napoletano? Imbottuto. Imbottunato. Mamma, che buono, peperone imbottunato. Mi fa pensare improvvisamente a Nerano. Va bene, niente, così, delle piccole emozioni. È arrivato il momento della ricetta. Dica. Ho fatto la pausa oggi. Buongiorno. Buongiorno Simona. Buongiorno, va bene. Buongiorno. Guarda, oggi Simona, la situazione è drammatica. Per chi non lo sapesse, lei è Simona Galimberti, la torta di Simona, nonché mia moglie. Va bene. Senti, oggi devo prepararti. E fra l'altro, questo weekend sono anche abbastanza milanese, quindi poi non mi posso neanche tirare indietro. Dei pisarei alla zucca. Prometto, Simona. Grazie. Che lo metto un po' alla prova, perché dalle prime puntate dove in tre gesti, in tre movimenti sexy faceva un piatto, adesso deve muoversi un po' di più. Vai con la ricetta, Pier. Okay. Vabbè, un movimento sexy. Allora prendo 3 etti di pane grattugiato e lo grattugio. 3 etti di pane grattugiato. Sì, devi raccontarlo anche velocemente. E poi sennò... stai calmo. Poi prendo 2 decilitri di brodo caldo e poi a un certo punto li unisco e comincio a impastare. A me piace impastare con una grana 27 mesi. Tu lo sai bene, amore mio. Certo. È vero? Aggiungo. Assolutamente. Aggiungo all'impasto un po' di noce moscata. Certo. Giusto? Come sto andando? Benissimo. Bene, molto bene. A questo vai. Punto arriva il momento nel quale andiamo a comporre il nostro pisareo. Qui proprio noi facciamo il pisareo. Pisareo si dice, sì, non lo so. Non lo so. Tu, aiutami. Sì, plurale pisarei, sì. Uno sarà pisareo. Pisarei. Che poi tu sei di originale di Cremona. Singolare non sei credibile, comunque. Fai plurale. Infatti ne preparo più di uno, esatto. E faccio questi rotoli di 1 centimetro. Ci sono 2 possibilità per farli. Li posso fare, come a me piace di più, perché sono un artista, strisciando il dito, no? Facendo adesso, alla radio non si vede il gesto. Come però, un'orecchietta. Come un'orecchietta, come un plin. Come un'orecchietta. No, non è tutto plin, è come un'orecchietta. come un'orecchietta. In alternativa posso rigare anche con la forchetta, no? Sì, certo. Vai avanti, avanti, devi essere deciso, poi abbiamo il voto. A questo punto, prima ancora di tutto questo, avevo già ovviamente cucinato la mia zucca, che io, come ben sai, cucino al forno dentro a un cartoccio. A questo punto la scavo ben bene, tolgo i semi, che però non butto perché io sono della scuola di Oldani, quindi poi riutilizzo tutto, e con questa purea aggiungo un po' d'olio, una buccia d'arancia e un'altra cosa che non riesco a vedere, che sempre, potrebbe essere aceto. È scritto tu. Non capisco la mia calligrafia. Aceto, arancia, buccia di arancia, un goccio di aceto se vuoi lo l'aceto, possiamo aggiungere, ci può stare. Aceto? Diciamo che ci può stare. Ma è un mio tocco personale. A questo punto amalgamo questa, venuta fuori questa vellutata e amalgamo le due cose, ho fatto, no? Manteco si può dire. Manteco. Cominciamo a usare la terminologia di cucina. Mamma mia. Smaltechiamo i pisarei con la vellutata di zucca. Che io comincio il weekend anche con dell'autostima, cioè quando mi sveglio il sabato mattina, poi intorno alle 9:40 l'autostima muore. Va bene, che torta ci fai, visto che fai la zucca? Ah, ecco, così per continuare. Come si parla della zucca? Dal salato al dolce. Esatto, io uso la zucca mantovana e la cuocio anch'io al forno dentro al cartoccio e poi la purea alla frullo e la unisco a un impasto classico di una margherita con, io uso olio di semi al posto del burro e aggiungo cannella o zenzero grattugiato a seconda così di come mi va. Lo zenzero torna, quindi è un gusto che con la zucca ci mi piace, ci azzecca mi piace molto e la cannella è, se vuoi, un po' più classica, la versione un po' più... Vabbè. Però mi piace. Io avrei fatto la sbrisolona per rimanere a manto. Vabbè, comunque sì. Fai questa torta di zucca oggi con questa zucca, ma avete veramente. Anche un gelato mi viene in mente, Simone. Una cosa veloce: zucca, sì. Purea di zucca frullata, sì. Mantecata con un po' di poco zucchero, un po' di succo di limone. Poi assaggi questo gelato, questo sorbetto e mi dici. Ok, fantastico, assaggeremo. Okay. A proposito di zucche, grazie, le faremo sapere, Galimberti. Grazie, sempre bello sentirla anche al telefono. È arrivato il momento della canzone di oggi. Oggi veramente tocchiamo vertici, aerei, precipizi, come dice il poeta, perché veramente siamo di fronte a un capolavoro, una canzone molto controversa che sembrava, venne censurata da Top of the Pops, dalla BBC, perché sembrava che fosse in qualche modo una canzone antiabortista. In realtà parla del rapporto complicato di Billy Corgan con i suoi genitori. Genitori, sono gli Smashing Pumpkins, ovviamente, questa è Disarm. The Killer in You. Vabbè, insomma, livelli altissimi per questa canzone. Abbiamo il consiglio antispreco per chiudere la puntata? Certo che sì, io direi possiamo utilizzare la buccia della zucca una volta che l'abbiamo cotta, possiamo essiccarla un po' di più, frullarla con un po' di farina di mandorle, con un po' di zucchero e se vuoi un po' di burro e creiamo un biscotto che potrebbe essere la base di una torta, come una torta di Simona. Allora, io bravo, ma al di là di questo devo dire che non mi fa impazzire la zucca, ma ho capito che è veramente un altro c'è un mondo incredibile, perché sai che in Italia abbiamo congelato, mi hai veramente sconvolto, no? Abbiamo questa cultura della zucca che in altri paesi non hanno, ad esempio in Francia non è un prodotto che viene utilizzato così tanto. Esatto. Noi diamo un valore aggiunto. Poi è una verdura, è molto attuale, molto moderna e fa molto bene. Va bene, viva la zucca, mi avete quasi convinto. Grazie, questa era Mangia Come Parli, grazie chef, ci sentiamo settimana prossima. Ovviamente domenica sera c'è la replica per chi ci sta seguendo in diretta, poi c'è il podcast a scaricare con tutte le nostre puntate e soprattutto 349-238-6666, continuate a mandarci i vostri SOS. Grazie. Oldani. Ciao. Ciao.